ci sono tanti altri racconti, memorie di queste cose che potrei parlare durante ore, però non ho tutti i testi. Potevi leggere i testi qui. Ma non è sempre facile per le donne mettersi così a organizzare, a parlare, a militare. Un'ultima citazione è di Marie-Louise Berneri, figlia di Camillo Berneri, lei è anche molto militante, soprattutto in Inghilterra. Scrive al suo compagno Vernon Richards: lunedì mattina siamo andati ad un presidio e mi hanno convinto a prendere la parola. Sai che non avevo mai parlato all'aperto davanti a tutti. Era piuttosto bizzarro. Quando ci penso, mi domando ancora come ho potuto montare su quella piccola sedia e fare un discorso. Mi hanno detto tutti che me la sono cavata bene, ma a volte i compagni sono così gentili che non so cosa ci sia di vero. Ma mi hanno chiesto di parlare durante un'altra manifestazione il giorno dopo e povera me, ci sono andata. La sola cosa buona di questi discorsi è che ci si sente felicemente sollevati quando si è finito. È come dare gli esami, solo che non si ha bisogno di aspettare i risultati. Dunque, la sola cosa buona è che si sente felicemente sollevata quando è finito. Grazie. Allora, forse avrete notato che non ho parlato di Emma Goldman, perché la povera Emma Goldman è stata così sfruttata da tutte le donne, tutte le femministe, tutti gli anarchici come paragone della... abbiamo un po' fatto questa mostra per far vedere che è vero che Emma Goldman è centrale, importante, forte, bella e tutto, ma che ci sono delle altre, tante. Vorremmo continuare questo lavoro, forse fare un libretto, un CD, non so. Dunque, se avete dei contributi a proporre, siamo aperte. Allora. Dirti una cosa, non so se forse mi sbaglio. Tu prima hai detto che non sai o non ti ricordi di uomini che abbiano detto chiaramente ho rinunciato alla paternità per la rivoluzione. Se non mi sbaglio, il compagno di Goldman, si chiamava Bergman? L'amico, sì. Che era stato, che ha fatto tanti anni di carcere. Mi sembra che lui uno lo dice a un certo momento. Forse. Se forse. Non mi sbaglio. No, ma... Nella biografia buona... di Emma mi pare che a un certo punto lei... racconta appunto che il suo compagno le ha detto questo. Anche per me è l'unico che mi ricordo. Dai, volevo chiederti un'altra cosa. Questo è un po' un mio dada. La Frida Kahlo l'avete messa nelle donne? Chi? La Frida Kahlo? No, che non è mai stata anarchica. No, però diciamo, per come contributo sulla libertà della donna... Lei è stata piuttosto comunista, dichiaratamente. Ovviamente, sempre questa scelta delicata che abbiamo anche nelle nostre biblioteche, centri di documentazione, che se prendiamo tutti i personaggi simpatici che ci danno ispirazione, eccetera, sarebbe una cosa enorme. Dunque abbiamo dato precedenza alle donne dichiaramente anarchiche libertarie. Con alcun precursore, se si può dire, come le donne russe o la Comune di Parigi. Era solo per limitare un po' l'ambito e l'ambizione. E se lui ti regala quel cappello, io ti regalo tutti i gioielli della Leda, così esce. Come faceva? Ma se li metteva solo per le foto. Chi lo fa? Magari lascerei un attimo di spazio all'amico di Amnesty International, che ha portato del materiale su una campagna, non conosco bene, sulle donne che state facendo. E poi se caso se ci sono dopo ancora delle domande, degli interventi, delle curiosità da proporre a Mariano o da discuterne così, ci sarà ancora sicuramente spazio, no? Più tardi. Ok. Ciao a tutti, io mi chiamo Cesare e sono un volontario di Amnesty International, scusi le spalle, e mi fa piacere quell'ultima cosa che ha detto, perché adesso anch'io mi sento un attimino agitato parlando di tutte queste persone, non sono molto abituato. Comunque, allora, io appunto faccio il volontario per Amnesty International, una brevissima spiegazione di chi cos'è Amnesty e cosa fa. Amnesty esiste da una trentina d'anni. Si batte per i diritti dell'uomo e è stata fondata da un uomo che si chiama Peter Benenson, che è morto l'anno scorso, il fondatore di Amnesty International. Il tutto è partito quando tre studenti a Lisbona, durante il regime militare in Portogallo, fecero un brindisi alla libertà e furono arrestati. Benenson, leggendo questo, creò il movimento Amnesty da solo, poi lui, poi con i suoi colleghi, poi il movimento crebbe fino a diventare quello che è oggi, che è un'associazione a livello mondiale che conta milioni di volontari. Amnesty è strutturata in due modi: c'è una parte che è completamente di professionisti, ha la sede a Londra, poi ci sono le sedi nazionali e ci sono anche delle sedi regionali, ce n'è una qui proprio a Lugano, in via Besso. E poi dopo l'altra parte sono tutti noi volontari. I professionisti sono quelli che preparano tutti questi materiali che c'è, e noi volontari siamo quelli che, come me, danno il loro contributo e quando possono cercano di parlare delle nostre campagne e soprattutto di portare avanti i casi e le azioni che prepariamo. Per collegarmi adesso al discorso per quale sono qui, insomma, per le donne, io volevo dire solo due cose. Volevo leggervi l'articolo numero 2 dei diritti dell'uomo, che dice: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, eccetera, eccetera, eccetera. Di sesso. Insomma, Amnesty è partito da questo semplicissimo presupposto che i diritti dell'uomo non fanno distinzione per il sesso delle persone. E basandosi poi sulla realtà quotidiana nazionale ma anche mondiale, le violazioni nei confronti delle donne sono innumerevoli. A partire dalle difficoltà, cioè delle violenze domestiche, alle situazioni a livello nei conflitti durante le guerre, ma poi anche semplicemente nelle nazioni dove la situazione politica, religiosa e sociale mettono la donna di fatto a un livello molto iniquo, diciamo, nei confronti dell'uomo. E quindi Amnesty da un paio d'anni ormai e ancora di sicuro per tutto il 2006 porta avanti questa campagna a livello globale che è mai più violenza nei confronti delle donne. Abbiamo moltissimo materiale, prospettini, libri, librettini, che poi avrò piacere, se volete, di potervi distribuire qualcosa e se volete leggere. E praticamente noi come Amnesty rivendichiamo a vari livelli, quindi a livelli sia a partire dal livello domestico, quindi a livello nazionale, svizzero, perché succede anche qui, non è che dobbiamo nasconderci, fino ad arrivare ai livelli internazionali, nelle situazioni di conflitti, delle guerre, dove le donne sono stuprate, sono messe in condizioni disumane, come anche nelle situazioni tipiche delle nazioni dove le donne non sono molto tutelate. Noi quest'estate, prima che venisse votata e approvata in Iraq la nuova Costituzione. Come Amnesty avevamo fatto una campagna per far inserire nella nuova Costituzione irachena delle norme che tutelino le donne, cosa che prima non esisteva. Pare che i risultati non sono stati molto brillanti, però noi insisteremo e continueremo e porteremo sempre avanti questa nostra campagna per la donna. Se avete qualche domanda, sono a vostra disposizione. Vi ringrazio. Se qualcuno ha delle domande sulla mostra, su degli interventi per un dibattito, non so, qualsiasi cosa, benvenuto. Io ho una domanda. Di tutti questi cartelloni che hanno delle biografie di donne, quante sono ancora vive? La scelta per la mostra è di prendere solo donne che sono morte. È una scelta così perché non volevo mettermi in. Ah, ecco. Dunque è una scelta così. Dicevi prima che l'idea era quella di fare una pubblicazione o un CD. L'avete solo in francese per adesso, più queste produzioni parziali in italiano, o avete anche altri contenuti? Allora, infatti la versione in italiano è stata sviluppata da Silvia Francolini, che ha fatto la mostra in Italia parecchie volte. Era già parzialmente stata tradotta su rivista A, ma anni fa. E abbiamo pensato, è sempre un po' delicato far viaggiare una mostra, e questa si rifà ogni volta, cioè che è sul formato computer e si può rifare. L'idea sarebbe di fare un CD in parecchie lingue, se troviamo traduttore, traduttrice, traduttori o altri contributi. Fino ad oggi non è stato fatto, però Silvia ed io cerchiamo di sviluppare l'elenco delle donne che si possono presentare e allo stesso tempo incoraggiare altre persone in altri paesi a fare lo stesso lavoro. Dunque l'idea del CD sarebbe per fare mostre e poi c'è anche l'idea di fare un libretto, un libro con un po' più di riflessioni, un po' più testi, perché per una mostra i testi devono essere molto brevi. Allora puoi sfruttarmi per tedesco, polacco e russo. Puoi sfruttarla per tedesco, polacco e russo. Perfetto. Posso darti una cosa simbolica? Devi accendere. Questo fuoco non si spegne. Schiaccia sopra. Sofia. Sofia su questo fuoco. Ho pagato per il tabacco. Quindi di dire che le donne anarchiche abbiano avuto una sensibilità maggiore rispetto a molti uomini nel passato per quanto riguarda questioni come la violenza e i rapporti umani e l'educazione, per esempio, anche. Delle sensibilità in più, forse. Non so, infatti sulla questione della violenza c'è tutta una corrente nella storia dell'anarchismo, di un anarchismo non violento, di tattiche, pratiche, anche problematiche senza violenza, cioè un'idea dell'azione diretta che non sarebbe violenta, non violenta contro persone, e anche uomini, ma è piuttosto a livello, diciamo, delle relazioni personali, relazioni dirette nella coppia, ma anche con le altre persone, che penso la sensibilità delle donne è più visibile, diciamo, su quello che abbiamo letto. Forse si deve anche leggere testi di uomini con questa problematica. A volte si leggono testi con uno sguardo più politico, più storico, invece leggerli a livello più personale, come leggere memorie, testimonianze, lettere, forse si trovano più cose. E sull'educazione c'è anche molto, sì, tutta la problematica dell'educazione libertaria è stata portata pubblicamente da uomini. La voce delle donne, per esempio, c'è Maria Rigier, non so se è qui, che faceva tutta una critica dell'idea delle scuole moderne, tipo scuola Ferrer o scuole attive, dicendo che non preparano i bambini alla violenza sociale, che sono troppo protettrice, troppo così, per preparare i giovani a affrontare le difficoltà sociali. E altre cose, così, cose piccole cose, forse ci sono filoni da seguire più. Non abbiamo approfondito, abbiamo piuttosto dato un aperitivo, idee per ricerche e lavori ulteriori. Sì. Se non sbaglio, ieri sera dicevano, le donne libere dicevano che avevano avuto un ruolo importantissimo all'interno degli Atenei Libertari, che sì, valorizzavano moltissimo questa educazione, l'alfabetizzazione delle donne, la pedagogia libertaria, e che erano, diciamo, le esponenti, diciamo, di spicco di questa tendenza del periodo, quindi probabilmente hanno avuto un ruolo molto importante. Sì, sì, non ho parlato di loro perché avete avuto ieri questa presentazione, senz'altro. Ascolta, non c'entra proprio con la mostra, però se puoi dirci qualcosa su come si sono sviluppati i rapporti dopo, cioè rispetto al movimento femminista dopo il 68, l'intorno, e le anarchiche, e cosa c'è stato, cioè come si sono svolti questi rapporti? Ci sono stati, l'anarcho-femminismo, per esempio, che ruolo aveva in questo... questo contesto, okay, perché probabilmente sono cose attuali comunque, no? A Parigi, in un'università di Parigi, nel maggio 68, c'era un manifesto dicendo: la rivoluzione ha cominciato da 15 giorni e non si è ancora parlato delle donne. E appunto che in questi anni che è apparso il nuovo movimento femminista, e anche questo nuovo concetto di anarcafemminismo, che non era mai stato scritto prima, che non l'ho mai visto, non ho mai letto questa parola anarcafemminista. Infatti, una grande parte di questo nuovo femminismo era di essenza libertaria, quasi anarchico, cioè che è stato un movimento contro tutte le gerarchie, dunque contro tutto tipo di dominazione, dominazione del padrone, dello Stato, del marito, eccetera, eccetera, e ha cercato, o ha reinventato forme di organizzazione, di dibattito, di sviluppo di tipo autonomo, autogestito, orizzontale. C'è stato le donne anarchiche che hanno partecipato a questo movimento hanno cercato di sottolineare, di valorizzare questo aspetto anarchico del movimento di liberazione delle donne. Ma come tutti questi movimenti degli anni 68, ci sono stati diversi correnti più organizzati, più femministi duri, più anarca-femministe. Sì, gli anni 68, diciamo, erano un vero laboratorio di idee, di pratiche, all'inizio senza denominazioni di corrente politiche espresse. Cioè, siamo il movimento, si diceva, non siamo né trotskisti, né anarchici, né comunisti. E poi poco a poco i correnti si sono più individualizzati, più riconosciuti, anche le donne sono entrate in queste... orme, hanno inventato nuove forme, però penso che il filone libertario è stato molto forte, soprattutto all'inizio. Dopo è un po' difficile da valutare, per me non posso veramente valutare, tutta la letteratura anarcha-femminista è nata di questi anni, con quasi unica riferenza la Emma Goldman, perché era un movimento più forte in America, negli Stati Uniti, e poco a poco si sono riscoperte altre donne, però per esempio Louise Michel non è mai stata una figura emblematica delle femministe, perché non era considerata come femminista, la povera Vergine Rossa. Ma Mujeres Libres dopo, poco a poco altre anche, che hanno anche permesso di pubblicare libri, di fare ricerche, di far conoscere, ritrovare la vita di queste donne.